Bene, abbiamo i microfoni di Radio Wombat, il rappresentante della comunità palestinese a Firenze, Abed, e Claudio di RCS Italia, con i quali oggi parleremo del Giro d'Italia che quest'anno, per la prima volta nella sua storia, parte da un paese al di fuori dell'Europa. Si tratta di Israele, da dove il Giro partirà in data 4 maggio 2018. Data che non è casuale perché è appena prima, veramente in prossimità di una festività palestinese che si svolge il 15 maggio, si chiama Nakba e adesso Abed ci spiegherà che cosa rappresenta. Sì, buongiorno a tutti. Io voglio ringraziare la radio, vostra radio, Radio Wombat. Wombat. E allora, ecco, parlando della Nakba, la Nakba è praticamente la disfatta del popolo palestinese, che ha reso il mio popolo un popolo di profughi, che è praticamente la Nakba del 48, che ha reso quasi metà, se non posso dire anche il 2/3 del mio popolo, li ha reso profugo, senza terra, e portando avanti, alzando sempre la parola famosa di Golda Meir, questa che è una terra per un popolo senza terra, per una terra senza popolo, che loro allora portavano su questo slogan che la Palestina era disabitata. Invece, in Palestina, allora la Nakba del 48 ha portato alla distruzione totale di più di 550 tra villaggi e cittadini palestinesi, e ne qui ha reso diversi di migliaia di palestinesi sono stati massacrati. Oltre a questo, abbiamo quasi più di centinaia di migliaia di palestinesi che ancora vivono aspettando il loro ritorno alla loro terra di origine, che vivono nel campo profughi in Giordania, nel Libano, in Siria, eccetera, eccetera. È un simbolo della Nakba e sono le chiavi di casa, se non sbaglio, Sì, no? Quindi l'idea effettivamente. di perché queste persone sono state buttate letteralmente fuori di casa e hanno conservato le chiavi di casa e un giorno sperano di tornare, esatto. Perché purtroppo noi, ecco, siamo sempre tutta questa gente che è stata buttata da casa sua, e allora ognuno di noi pensava, perché sono anche dei regimi arabi, allora dicevano intanto domani si torna, ognuno di noi ha chiuso di questa gente che è stata buttata fuori di casa sua, ha preso la chiave, ha chiuso la sua casa a chiave e le ha portato in tasca aspettando, sperando il ritorno. E perciò ora questa chiave quasi di 5 milioni di profughi palestinesi che vivono nella diaspora, dispersi nel mondo arabo o altrove, hanno questa ancora chiave, messe ognuno le teneva come una cosa sacra, santa, per ricordo della casa sua dove è nato, con la speranza di tornarci un giorno, sperando di un mondo che le rendi un po', cioè, ecco, giustizia. C'è il campo profughi di Jenin, mi pare che all'ingresso c'è una grandissima chiave che rappresenta proprio questo fatto. E noi come associazione di amicizia italo-palestinese abbiamo fatto delle t-shirt, delle magliette che hanno davanti la chiave È a ricordo di giusto, questo è fatto. giusto, perché per noi è diventata un simbolo che rappresenta le profughi palestinesi, che anche le Nazioni Unite hanno votato una legge del 194 che dice specificamente che il diritto di ritorno dei profughi, che ne qui purtroppo ora ancora le Nazioni Unite non sono riuscite a rendere giustizia a noi altri palestinesi, a questi profughi. Bene, e quindi abbiamo detto che il giro partirà immediatamente prima di questa festività, di questa ricorrenza, e non è l'unica, diciamo, violenza che viene perpetuata sul popolo palestinese, perché appunto sappiamo bene, ma poi ci faremo spiegare anche più nel dettaglio un po' quello che sta succedendo, quello che è successo anche in passato. Ma tutto questo, diciamo che agli israeliani

E quindi guai se gli organizzatori italiani dicono che parte da Gerusalemme Est. Noi non diamo più i 16 milioni. A che i nostri si sono prostrati, dicono: ah, scusate, scusate, è un incidente che non avverrà più. E a questo punto lo Stato di Israele, cioè il ministro degli esteri israeliano, ha dichiarato, gli italiani hanno dichiarato che incidenti di questo genere non avverranno più. Da allora, sulla Gazzetta dello Sport e sugli altri giornali sportivi, compare che il Giro d'Italia partirà da Gerusalemme. Ecco, infatti questa grande operazione mediatica serve anche proprio a coprire dei progetti che Israele sta portando avanti sia nei confronti sia sul territorio di Gerusalemme, sia anche sembra che sia interessato alla Valle del Giordano. Sapete darci indicazioni più precise? Sì, io. Ma sulla Valle del Giordano, dunque, allora, vediamo un po' storicamente come avvengono le cose. Nel 1948 c'è la cosiddetta guerra d'indipendenza di Israele. La chiamano guerra d'indipendenza, in realtà l'esercito israeliano combatté contro gli eserciti arabi, cosiddetti, solamente marginalmente, in quanto c'è un accordo tra israeliani e giordani, il re Abdallah di Giordania, che era quello che aveva l'unico esercito in grado di non combattersi, ma di lasciare che i giordani invadessero tutta la Cisgiordania non ancora occupata da Israele. E allora si tracciò la cosiddetta linea verde, che è quella che tuttora divide Gerusalemme in due. Ora, successivamente i giordani si ritirarono e nella guerra del 1967 Israele occupò tutta la Cisgiordania fino al Giordano, quindi fino ai confini con la Giordania. Da allora l'esercito israeliano, malgrado gli accordi, i cosiddetti accordi di Oslo che ci sono stati successivamente, non si è mai del tutto ritirato, non si è mai ritirato di fatto. Dalla Valle del Giordano in particolare l'esercito israeliano non si è mai ritirato e continua una pulizia etnica nella Valle del Giordano. Adesso non ho in mente i numeri, però mi pare che la popolazione palestinese della Valle del Giordano si è ridotta a un terzo di quella che era nel 1967. Questo, malgrado l'incremento demografico e come conseguenza della pulizia etnica che viene man mano fatta, perché la Valle del Giordano viene considerata che è una valle fertile, era intensamente abitata dai palestinesi, è una valle che viene considerata zona militare e quindi che l'esercito comunque lì ci sta. Il fatto che la presenza dell'esercito è un anticipo della presenza dei coloni, perché che cosa succede? L'esercito già dice: ah, questa è una zona di tiro, e allora lì i palestinesi se ne devono andare. Poi, dopo che è stata per un po' una zona di tiro, di esercitazioni militari, guarda caso nelle caserme che erano state costruite arrivano dei coloni. Poi questi coloni si allargano, costruiscono un muro, diventano una nuova colonia. Questo è il modo in cui conquistano la terra. E poi all'ordine, se non mi sbaglio, è all'ordine del giorno il taglio degli ulivi, o addirittura si appropriano delle fonti d'acqua, delle sorgenti, proprio per rendere sempre più difficile l'agricoltura, che poi è l'anima, no, del popolo palestinese. Tu abiti che Quindi. sei di là, di pure tu Sì, come svolgono le cose. è vero. Comunque, come sappiamo, mi si piace a dirlo, ogni dittatura, cioè nella storia, come ci ha insegnato anche la storia, sempre hanno cercato di usare certi strumenti, come qui il caso di Israele, di questo Giro d'Italia, per pulire la sua immagine, che vogliamo o no, è un po' sciupata, perché ormai Israele si sa, ha voglia che possono dire tutto quello che vogliono, però Israele non è una dittatura, non è altro che una politica che usa una politica di pulizia etnica e occupa un altro popolo e un'altra terra. Sicché, detto questo, Israele sta cercando di fare tutti i modi per togliersi questa, pulirsi insomma la sua immagine davanti all'opinione internazionale. Non solo Israele, ecco, come mi diceva il mio amico Claudio, che ecco, alla domanda che Israele per costringerci insomma sempre e di più a lasciare la Palestina e sempre rubarci la terra a noi palestinesi, di quel poco che ci è rimasto. Voglio solo sottolineare un fatto: noi stiamo ora purtroppo come palestinesi, abbiamo accettato di fare il nostro stato palestinese all'attuale ora. Attualmente noi stiamo accettando di fare un Stato palestinese sul quasi il 22% della Palestina storica, pur realizzare un sogno, una dignità, identità nostra palestinese, non solo per via del territorio. Israele non accetta tutto questo. Purtroppo, come è stata la domanda fatta, insomma, che Israele non solo che non ci permette di usare le nostre acque nelle nostre terre. Loro praticamente ci hanno lasciato a secco. Oltre che ci rubano la nostra terra, le nostre fonti cioè la nostra economia quasi una agricoltura, se c'è il contadino, quasi l'80% si vive sull'agricoltura. Noi viviamo con l'olivo, noi Palestina è famosa con l'olivo e l'olio di oliva, che purtroppo tutti i santi giorni vengono distrutti i campi di olivi, e noi c'è anche tanti di quelli sostenitori della causa palestinese che vengono da tutta l'Europa, da tutto il mondo per aiutarci, per andare o magari a sostenerci, per andare a raccogliere nel periodo di raccolta delle olive, vengono insomma per proteggerci dei loro coloni che sono come i cani sciolti, che ci ammazzano e ci uccidono davanti agli occhi dei militari israeliani. Basta vedere quello che è successo a questa ragazza bambina del Nabu Saleh, una minorenne che è stata all'Ahed, sì, Ahed, è stata praticamente messa dentro perché ha tirato un schiaffo a un soldato a casa sua, dentro casa sua, e questo non succede solo in Israele. Allora, purtroppo Israele, noi siamo nella zona di Salfit, è una zona la più ricca, quasi sotto questa, cioè questa città c'è è un mare di acqua. Purtroppo tutta quella zona che circonda Salfit vive praticamente senza acqua, perché Israele tira da sottoterra e distribuisce questa acqua ai coloni che tutti i giorni nascono come funghi nella terra palestinese, calpestando il diritto internazionale contro la legalità, contro le Nazioni Unite, e continua ancora praticamente a rubare terra, a costruire dei Anche contro la coloni. dignità dell'uomo, perché Ma basta assolutamente. ricordare il colono israeliano l'ultima volta, quello che investì i ragazzini. Di proposito, mise sotto, a parte quelli che sparano proprio effetti protetti a dei bambini o a degli agricoltori, a parte poi anche dire, ecco, ad esempio, Israele ha il record di arresti di minorenni, quest'anno non so a quanto si è arrivati. Siamo arrivati a 560 bambini che ora sono praticamente dentro il carcere di Israele, e questo non è mai successo in nessuna dittatura nella storia. Bambini di età di 12-13 anni messi dentro. Basta vedere questa bambina che l'abbiamo tutti insomma vissuto, cioè ecco, ha fatto un minimo di voci, perché insomma questa ragazza di Ahed, che le hanno tenute dentro in carcere finché ora arriva a 18 anni per condannarla a 11 anni. Prima è stato chiesto a 11 anni di arresto per una bambina che ha tirato un soldato nella casa sua, le ha tirato un schiaffo. Questa è una cosa che non succede Sì, è da praticamente nemmeno al notare tempo del che fascismo. per converso una ragazza invece israeliana che ha dato uno schiaffo a un soldato israeliano perché questo soldato voleva impedirle di tirare sassi ai palestinesi, ai bambini palestinesi. Lei gli ha dato uno schiaffo, beh, è a piede libero, non è stata messa in carcere né niente. Cioè, Ma un non trattamento da solo una parte e un trattamento dall'altra. dall'altra, e non solo questo, noi viviamo una cosa tragica storia che purtroppo, come sapete, la mass media non ci porta a nessuno, non ci fa vedere nulla. Basta vedere il Coloni quando viene praticamente ucciso un palestinese, non è mai stata distrutta a casa sua, non è mai stato condannato o portato in carcere. Abbiamo visto quel soldato che ha ucciso al centro, insomma, di Hebron un giovane ferito che del protetto questo da tutte le leggi, di tutti i diritti internazionali, un ferito deve essere praticamente, viene subito In diretta televisiva, soccorso tra l'altro. in diretta televisiva e viene ucciso a sangue freddo da un soldato portato perché vogliono farsi di pelle davanti, perché ormai sono stati messi alle scoperto e portata la notizia davanti ai giornali, televisioni, insomma, del mondo. Le hanno messo dentro ieri, proprio per la precisione, 3 giorni fa, le è stata ancora un'altra volta, prima di tutto le è stata richiesta l'amnistia a un assassino, è stata chiesta alle presidente israeliane l'amnistia. E ora sono state ridotte le 10 anni che le sono state date a 3 anni. Invece un ragazzo palestinese che tira dei sassi, minorenni, ancora bambini, vengono messi e condannati a anni e anni di carceri. E le loro case, che ci viene anche distrutta. Solo negli ultimi anni a Gerusalemme e intorni noi abbiamo più di quasi 15.000 case con altri, insomma, cabannoni, negozi, eccetera, sono stati distrutti a mano dell'esercito israeliano. Tutto ciò, questo per far sì che noi molliamo e vogliono praticamente prendere il resto di quel 20% che noi stiamo sognando di avere il nostro futuro Stato, è quasi impossibile. Ecco, tornando alla questione del Giro d'Italia, BDS, questa volta l'ho detto giusto, BDS Italia organizzato in diverse città d'Italia e non solo, una biciclettata per portare all'attenzione questo scandalo, questa incoerenza che sta avvenendo in Israele. Purtroppo a Firenze, a causa di imprevisti spiacevoli, si può dire, perché quel giorno era prevista la manifestazione per l'assassinio di Didier, quindi era stata spostata il giorno successivo, poi giorno di tempesta, è stata rimandata definitivamente in data 31 di marzo, che è un giorno simbolico per la causa palestinese, perché rappresenta il giorno della terra. Cosa ci puoi raccontare? Che cosa rappresenta questa occasione? Allora, la giornata della terra, come sapete, tanto noi, il nostro calendario, noi palestinesi, è pieno di anniversari, perché purtroppo, come sapete bene, insomma, quando un popolo viene cacciato da casa sua in tutti i modi, in tutto ciò possibile, e la brutalità, cancellando una nazione, un popolo, piazzando un altro popolo al posto suo. Nei passaggi di tutti questi, diciamo, il tappe di tutti questi anni ha reso il nostro popolo quasi ogni giorno cioè abbiamo un anniversario, non è del tanto felice. E questa data, come quella del Nakba in cui si è parlato poco fa, questa data, la giornata della terra, nel 77, il perché noi la celebriamo tutti gli anni in questa data di marzo, perché nell'anno 79, il 76, come sapete, il nostro, il mio popolo, alle zone di Israele, è stata occupata praticamente, la zona di Palestina occupata nel 48, per via delle continuazioni delle confische delle loro terre, della brutalità dell'esercito e dell'occupazione israeliana contro di loro, sono scesi per la strada a manifestare e chiedendo un minimo di dignità e di diritto per loro e nella loro casa, nella loro terra, perché non li hanno lasciati, come sapete benissimo, sono praticamente circondati, tipo le città come Nazareth, come Jaffa, come Acca, come tutte queste città. I palestinesi sono concentrati nelle centri di queste città, che purtroppo non possono nemmeno costruire le loro case per i loro figli, per la loro crescita naturale. Non ci sono permessi per loro di costruire altre case e non le danno nemmeno i permessi. Sono scesi per la strada a manifestare contro questa legge razzista dell'occupazione israeliana e in quel giorno c'è fu quasi un massacro, hanno ucciso 6 palestinesi, più di 40, 50, insomma centinaia di altri feriti. E da quel giorno è entrata anche questa, una data fa parte del nostro calendario di occupazione israeliana, che tutti gli anni in tutta la Palestina e in tutto, insomma, ecco, in tutto il mondo viene celebrata questa per ricordare la nostra terra e il nostro attaccamento alla nostra terra, al nostro diritto di tornare nella nostra Palestina. Ecco, biciclettata che il 31 di marzo partirà da... Partirà da Piazza Santissima Annunziata, che è il luogo simbolo delle critical mass fiorentine, cioè passano sempre da lì le critical mass. E partirà quindi da Piazza Santissima Annunziata alle 4 del pomeriggio, si farà un giro, un po' di volantinaggio per la città, passando per il centro, facendo due ponti, insomma secondo un itinerario che comunque sarà sempre rispettoso della viabilità, quindi non si faranno né sensi vietati né e si fermerà ai semafori rossi. E alla fine si confluirà in piazza Santa Croce. A Piazza Santa Croce c'è la celebrazione della giornata della terra, e quindi le due, diciamo, queste due branche della giornata si confluiranno in Piazza Santa Croce. In Piazza Santa Croce ci sarà anche qualche spettacolo teatrale, ci sarà animazione, ci saranno i terra terra che suonano, insomma è una giornata triste, però ricordiamo che il popolo palestinese mantiene una propria capacità culturale di essere allegri, di essere di mantenere la gioia come proprio patrimonio, che è incredibile, e noi ce lo chiediamo spesso, no? E ce lo chiedono spesso anche quelli che di noi vanno in Palestina, tornano e dicono: questo popolo resiste. Ed è un fatto storico anche questo, cioè che non è facile opprimere per sempre un popolo, perché i popoli resistono all'oppressione, e il popolo palestinese è da 70 anni che è sotto dominazione straniera. Ci si chiedeva giorni fa, no, ma questi ragazzi, non ne parlavamo oggi a pranzo con i miei figli, diciamo, ma questi ragazzi che sono nati sempre sotto le bombe, che non hanno visto altro che bombe, che attentati, che tipo di mentalità hanno? Che tipo di mentalità diversa da quella che abbiamo noi invece, che hanno i nostri ragazzi, che hanno i nostri figli? Che valore alla vita loro possono dare? Torno un attimo sulla questione della biciclettata, dunque, perché c'è una cosa che ci indigna in modo particolare, e cioè il fatto che la prima tappa da Israele viene intitolata Gino Bartali. Ora, Gino Bartali fu anche quello che durante la guerra nel sellino della bicicletta nascondeva bigliettini, messaggi, e si adoperava per aiutare gli ebrei a nascondersi e in fuga. Per questo è stata una cosa onorevole che lui ha fatto, per cui viene celebrato, per cui compare anche allo Yad Vashem di Tel Aviv, ed è considerato un giusto perché ha protetto gli ebrei durante la guerra. Ma Gino Bartali ha protetto gli ebrei durante la guerra perché gli ebrei erano i perseguitori.